Per prima cosa, mettetevi comodi. All'inizio è meglio che vi sdraiate sul vostro letto o su di un divano, con le gambe e la testa in posizione comoda. Assicuratevi che mentre vi rilassate, sciogliendo i muscoli, la testa rimanga sorretta, in modo che non possa assumere una posizione scomoda. Non c'è bisogno che alcun muscolo sia in tensione per mantenere la posizione. È consigliabile che la stanza sia in penombra. Staccate il telefono per evitare distrazioni. Ora siete pronti per cominciare. Ascoltatela bene questa sigla, perché è l'ultima volta che succederà oggi, come gli altri giorni di questa settimana, che è l'ultima della 13ª stagione di Eclettica. Poi un momento di sospensione, qualche settimana di pausa, e si riprenderà con tutto nuovo. D'altronde siamo alla settimana numero 49, vicinissimi alla 52, che avrebbe rappresentato una stagione lunga un anno, con la musica, le letture, i film di Eclettica a girare attorno alle vostre teste ed entrarci tramite le orecchie, esattamente come la Terra gira attorno al Sole per un anno intero. Riprenderemo quindi con questa nuova stagione fra qualche settimana, ma per il momento abbiamo l'ultima con cui chiudere. La voce è quella di Giulio Caperdoni, le parole sono quelle di Wu Ming, le parole che i Wu Ming hanno voluto che fossero lette prima di iniziare a leggere 54. Non c'è nessun dopoguerra. Gli stolti chiamavano pace il semplice allontanarsi del fronte. Gli stolti difendevano la pace sostenendo il braccio armato del denaro. Oltre la prima duna gli scontri proseguivano. Zanne di animali chimerici affondate nelle carni, il cielo pieno d'acciaio e fumi, intere culture estirpate dalla terra. Gli stolti combattevano i nemici di oggi, foraggiando quelli di domani. Gli stolti gonfiavano il petto, parlavano di libertà, democrazia, qui da noi, mangiando i frutti di razzie e saccheggi. Difendevano la civiltà da ombre cinesi di dinosauri. Difendevano il pianeta da simulacri di asteroidi. Difendevano l'ombra cinese di una civiltà. Difendevano un simulacro di pianeta. I never wanna feel My name is Borat. I like you. I like sex. It's nice. This is my country of Kazakhstan. It locates between Tajikistan, Kyrgyzstan, and assholes, Uzbekistan. Struck by an automobile, he flew through the atmosphere like a ragdoll with magical powers, or a spaceship in a meteor shower. We're all on board, shout. When we land, it'll be better. The abominations on my right and the left side. Just trying to keep up. You sent me my illness, but that's what I call it. Like a stick for your nest, the red bird broke with a wink and a smile. I have no choice but to dream of a dark country road that leads me away from this great pain. Oh, is there more? Ask the woman struck by lightning on the kitchen floor while she prays to oggi Eclettica l'abbiamo aperta con i Brazos, gruppo di Austin, Texas, che già ci eravamo ascoltati con Hands Up Little Gun, che già avevo definito come uno dei più interessanti nomi nuovi provenienti da quella scena. Ecco, gli stessi Brazos hanno aperto appunto Eclettica quest'oggi con Mary Joe, un brano sicuramente più solare di quello già precedentemente ascoltato. Formazione che, ricordo, ancora non ha nessuna pubblicazione ufficiale. Fino ad ora queste tracce sono così disponibili sulla rete, ma ancora nessun disco è stato pubblicato. The Abomination invece è la traccia che si è appena chiusa, direi un pezzo bellissimo, una di quelle melodie che ti si stampano in testa e da quella testa poi non se ne staccano più, al limite ne fuoriescono come fischio, è quello che almeno succede a me. Art in Manila è il nome della nuova formazione di Orenda Fink che ci siamo appunto ascoltati con The Abomination, ed ora invece una novità dal 27 di settembre per Sub Pop, data di uscita di The Shepherd's Dog, il nuovo di Iron and Wine, il primo vero album di Sam Beam, di cui Iron and Wine è uno pseudonimo, da oltre 3 anni e mezzo, dopo quel successo di critica e pubblico che era stato Our Endless Number Days, album che aveva venduto oltre 200.000 copie nel mondo. Ok, sono solo 200.000 copie, ma per Iron and Wine sicuramente lo si può ritenere un grande successo di vendita. Da The Shepherd's Dog ci ascoltiamo Boy with a Coin. Fronte jugoslavo, primavera 1943. Soldati italiani! Il popolo sloveno ha cominciato una lotta inesorabile contro gli occupatori. Molti dei vostri camerati sono già caduti in questa lotta. E cadrete sempre, giorno per giorno, notte per notte, finché sarete strumenti nelle mani dei nostri oppressori, finché l'ultimo pezzo della terra slovena non sarà liberato. I vostri potentati ve la danno a bere, che il popolo sloveno vi ami, che vi assalgano soltanto pochissimi comunisti. Questa è un'insolente bugia. Nella lotta contro gli occupatori andiamo tutti gli sloveni d'accordo. Sotto la guida del Comitato Nazionale Sloveno Liberatore, tutto il nostro popolo si è organizzato in un solo invincibile fronte liberatore. Soldati italiani, i vostri superiori vi nascondono in che disperata situazione Mussolini ha gettato l'impero italiano, avendolo venduto ad Hitler. Vi nascondono che Abissinia, per la quale Mussolini aveva fatto versare tanto sangue italiano, non è più nelle mani italiane. Vi nascondono la situazione senza uscita per le truppe italiane in tutte le colonie italiane in Africa. Vi nascondono le perdite che hanno subito le truppe italiane nei Balcani, che la Serbia occidentale, il Montenegro, la maggior parte della Bosnia ed Erzegovina, l'Ica e parti della Dalmazia sono già terre libere. Vi nascondono le terribili perdite ed i supplizi che devono sopportare le truppe italiane sul fronte russo dalle schiaccianti armi russe e dall'insopportabile inverno russo. Vi nascondono i disordini che nascono nelle città italiane per la penuria sempre più grande di viveri, per il continuo bombardamento dell'aviazione inglese, per la crescente scontentezza del popolo italiano con la politica del guerrafondaio Mussolini che lancia l'Italia nell'abisso. Questo era uno degli antefatti di 54 di Wu Ming. Thank you. He is my neighbor, Nursultan Tuliakbai. He is painting my assholes. I get a window from a glass, he must get a window from a glass. I get a step, he must get a step. I get a clock radio, he cannot afford. Great success. Sicuramente è sempre piacere poter riascoltare un brano di Fujiya e Miyagi, il trio inglese che fa finta di essere giapponese. Nel caso in questione è stata Collarbone che si è appena chiusa. Prima ancora invece Gun Moon, altrettanto piacere nel riascoltare Apple Pie. Sia Gun Moon che Fujiya e Miyagi sono gruppi che hanno trovato parecchio spazio negli ultimi mesi in Eclettica. Invece negli anni all'interno di Eclettica hanno trovato spazio un loro angolino confortevole, The Go Team, con le periodiche nuove uscite, come anche con questa nuova uscita, Grip Like a Vice, che arriva a chiudere la prima parte di Eclettica. Poi Giulio Caperdoni tornerà fra voi per altrettanta musica.